Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ci siamo, cari ascoltatori. Eccoci Oscar qua, Giannino, caro Alessandro, qua. 25 gennaio, lunedì, inizio di settimana, una settimana che sarà densa di avvenimenti. C'è il presidente dell'Iran che arriva, questo grande democratico. Niente vino. No, però 1000 impiccati l'anno. Ah, la tocco piano, come no, si suol dire in questi casi. Viva Pierluigi Battista. Ricordo a tutti che l'Iran organizza ogni anno questa grande fiera, sì, delle vignette anti-Shoah. Beh, scusa, abbiamo la loro risposta ci arriva. Siamo andati allora in Arabia Saudita. Siamo in ginocchio perché vogliamo i miliardi dell'Iran. Siamo andati anche in Arabia Saudita, che ne forse anche più di 1000. Li tagliano la testa, non impiccano. E vabbè, infatti, anche le mani, sai, per questo. Quindi tu dici, ecco, ti faccio questa domanda, perché io l'ho detto in rassegna stampa che non è una cosa secondaria. Niente vino e niente strette di mano. In Francia, per esempio, hanno fatto dei bei casini per servire il vino. Ma noi figurati, pur di qualche contrattino. Ah, ecco. Sì, beh, certo, l'Iran è diventato il grande paese di riferimento dopo l'accordo mondiale. Mi scappa da ridere, francamente. Abbiamo certo un valore molto relativo noi ai valori che contano. Mm. Vabbè, ma i santi intanto, caro Oscar. Oggi è il santo di... In realtà è un santo professore dei giornalisti, sì. Anche se mi scappa da ridere, perché siccome è il giorno della conversione di San Paolo, e San Paolo è tra l'altro anche, mi è sempre piaciuta l'idea che appunto i santi che santificano il cambio di idea, che è una cosa molto italiana, per così dire. E certo, santo dice, volta ma lui diventa da persecutore, abbraccia la verità. Dice sempre così quello che fa Volta Gabbana, però c'è il piccolo particolare. Naturalmente adesso diranno che non ho rispetto neanche per San Paolo, però insomma, grandissimo santo, per carità di Dio, e dei fondatori della Chiesa Cattolica. Ricordatevi che nelle parole di Gesù la Chiesa non esisteva. È stata codificata solo grazie a questo grande inventore di apparati che era San Paolo. E detto questo, poi ci sono come sempre questa bella plotone santi di santi minori, che hanno esatto, quelli mi incuriosiscono tantissimo, perché ce n'è uno che è fantastico e oggi è San Poppone Abato. Poppone Abate, capito? Poppone Abate. Vabbè. Vabbè, c'è una risata. Ah, occhio a fare battute. Poppone. Non faccio battute. No, nomina sunt consequentia rerum, direbbe dall'alto del pubblico. Comunque, tra l'altro, ci sono poi Agileo, Artema, Bretagnone, Palemone, Preietto, quindi ce n'è di tutti i tipi. Preietto, con la P iniziale. Preietto. La P, quindi Preietto. Però, insomma, San Poppone Abate, devo ammettere che in qualche filmetto italiano l'avrei visto. ecco, non ce l'hai fatta, In qualche filmetto italiano, ho detto, un bel filmetto di quelli che piacciono a coloro che sabato prossimo riempiranno, domenica prossima, le piazze italiane. Le piazze, no? Del Family Day. Ci sono state le piazze. Oh, noi aspetta, parleremo col sottosegretario della pubblica amministrazione Rughetti di ancora licenziamenti, di riforma della pubblica amministrazione, e quindi chiamateci all'800 24 0024, dipendenti pubblici, insomma, se avete problematiche. In particolare vorrei capire se gli italiani, se hanno avuto già tempo di leggere stamattina i giornali, o se hanno visto ieri in televisione la grande performance della signora, la moglie e dell'avvocato di Alberto Muraglia, che è diventato, dice lui, il capo ispettore. Era quello che timbrava le mutande, per capirci, sì, perché a non avesse chiaro a Sanremo. Il vigile in mutande. E che ha raccontato tramite il suo avvocato che lui in mutande sventava le rapine addirittura. Infatti una volta ha sventato una rapina in slip. Abbiamo tutti pensato che avesse un'arma segreta, un paccone che usciva dalla mutanda, quindi a punto, perché non timbrare anche in mutande? Fantastico. Oscar, fermati. Ma no, cioè, come fa l'avvocato del timbratore in mutande a dire: ma il mio assistito in mutande sventa le rapine? Oh, dico avvocato, ma un minimo di... Comunque è stato licenziato. È un po' effettivamente nell'era delle immagini la comunicazione è impietosa. Cioè quella fotografia lì. Ma impietoso è lui che timbra in mutande. Quell'immagine di lui che timbra in mutande, ma dice perché la casa è io abito nella casa del comune, no, dove c'è il timbratore. La signora timbratore, l'avvocato, no? Ieri non ho detto di più, perché dice timbrare mutande sono nei giorni festivi. Sì, ma sì, sì, cosa vuol dire? Sentiamo l'avvocato. L'avvocato si chiama Alberto Zoboli. Senti un po', spiega come mai ogni tanto timbravano per lui la moglie e la figlia. Ecco, attenuante, sì. Ecco. Lei lo sa che la Guardia di Finanza, secondo Giletti, le indagini, questo, dice che questa all'arena immagine si riferisce a sua figlia. Addirittura, cioè una minorenne. Non credo sia quell'immagine, ma ci sono anche alcune immagini della figlia, e questo è assolutamente vero. Difatti, la signora ha iniziato dicendo: ci aspettavamo una sospensione, non un licenziamento. Perché è evidente che il fatto che abbiano timbrato la moglie o la figlia non è corretto. Ma si tratta di timbrature avvenute in giornate e in occasioni nelle quali comunque Muraglia era sul lavoro. E lui dice così, infatti, io c'ero, però siccome mi hanno chiamato e c'era la pasta pronta in tavola. Non ridere, c'era la pasta. Ma no, ma scusa, ma ci sta. C'era la pasta la pronta. Ha perfettamente ragione. C'era la pasta in tavola, ma io mi ero attardato in ufficio. Non ho capito la pasta in tavola, ma cosa c'entra con la figlia. Io che penso che lui abbia un futuro come testimonial di qualche noto marchio di pasta italiana. Non credo altro. Comunque, insomma, lui dice: sono il capro espiatorio. Mi avete preso, mi avete tirato in mezzo. Adesso sono, sì, ecco, l'emblema del fannullone statale. Ecco. Ma cioè fa la vittima adesso? Sì, fa la vittima, vittima, e spera di essere reintegrato. Dice, mi batterò mutande fino alla fine per dimostrare. Beh, che... prendiamolo come, sicuramente ha un futuro come sgominatore di rapine in mutande. Esatto. Io credo. Comunque, caro Oscar, invece sabato ci sarà il Family Day. Sabato scorso ci sono stati coloro che hanno manifestato a favore invece della legge. Lo Sveglia Italia. Ci sarà uno scontro di piazza. Oggi c'è la CEI, quindi Bagnasco parla, quindi sì, domani sui giornali avremo... La Boldrini ha parlato e l'hanno accusata di essere un arbitro non imparziale. Ma secondo te i presidenti delle camere non possono esprimersi? Ma infatti, secondo me può esprimersi. Cioè, non vedo dire... perché. Che cos'è? Non piace mica la Corte Costituzionale. Cioè, inficia il voto, indirizza il dibattito. Cioè, è pur sempre stata eletta nelle file di SEL, ricordiamoci, Laura Boldrini. Quindi avrà una sua cultura politica, una sua storia e una sua idea. Siamo in un paese in cui anche il capo dello Stato interviene, ma mica nasconde le sue idee. Poi altro conto è, dovrebbe essere, no, la linea dritta con cui esercita le sue prerogative, ma le sue opinioni, però voglio dire, non è che io, infatti, le sue prerogative le eserciterà in maniera... Non sto difendendo la Boldrini in quanto tale, difendo il diritto di esprimere le proprie opinioni anche quando si hanno incarichi. Esatto, poi quando si siederà allo scranno di presidente della Camera farà il suo lavoro da presidente della Camera, cioè, non è che le due cose sono... Invece mi ha un pochino infastidito, non so te, la questione di della scelta della giunta della Lombardia di illuminare il Pirellone con Family Day. Ha a che fare con lo stesso argomento, infatti sono d'accordo con te. In quel caso, siccome si usa una proprietà istituzionale della regione, l'ex palazzo sede della regione, e lo si usa per comporre una scritta che invece è a favore di una cosa di parte, secondo me quello è improprio. Cioè Maroni è liberissimo di rilasciare tutte le interviste, esatto, che vuole per esatto il Family Day e non per Sveglia Italia. Utilizzare il palazzo della regione, come che è, insomma, per chiunque esamina non lo sa, ma per chi non ha un'idea, è uno dei palazzi più alti che domina nel centro della skyline di Milano. Utilizzarlo per dire io è Family Day, secondo me è improprio. Anche secondo me è improprio, però su questo poi ti accusano subito a dire allora sei pro o contro, no, ma non essere pro né contro, pro contro. Ma lì è una questione che quello è una cosa istituzionale. Però si usano due mezzi, due misure, perché sai che anche a Napoli mi hanno detto che al comune è stata messa la bandiera arcobaleno, i colori arcobaleno. Piazza Municipio, esatto, Municipio, l'intera piazza. Anche quello. Insomma, obiettivamente può essere considerato utilizzare un luogo che è di tutti, un'istituzione a favore di una piazza. E il problema è che hanno usato, credo, i soldi pubblici, se non ho capito male, non vorrei dire sciocchezze, però la piazza non è la sede della regione. Quindi il problema è, se c'è stata un'iniziativa con denaro pubblico, è chiaro che se l'ha fatto spendere qualche istituzione senza passare per una delibera politica, hai ragione tu, però non ne so abbastanza, quindi sono Napoli. Sì. Ce l'abbiamo Salvini, l'amico di Giannino, Oscar Giannino, Matteo Salvini? Senti qua, 5 secondi, è perentorio. Salvini la dice così. Io rispetto le scelte di vita di tutti, però la famiglia è quella, il matrimonio è quello fra l'uomo e la donna. Allora, sarà questo il dibattito? Cioè, se stabilire se il matrimonio è tra l'uomo e la donna oppure no? Beh, in buona sostanza lo è. perché tra chi sostiene che, non, che l'articolo 69 della Costituzione non consente il riconoscimento di diritti ad altri tipi di libere unioni ma stabili assunte di fronte alla legge, siccome sbaglia, perché qui non stiamo parlando del fatto che la famiglia in quanto tale, cioè la famiglia eterosessuale, non abbia un riconoscimento costituzionale. Poi ce l'ha in Costituzione, nei fatti il nostro welfare è più ostile alla famiglia e ai figli che c'è in tutto l'Occidente, ma questo non significa che, ripeto, unioni stabili assunte di fronte alla legge, tra eterosessuali o tra omosessuali, non mi interessa, non abbiano la possibilità per il legislatore di vedere riconosciuti finalmente dei diritti. Siamo l'unico paese in Europa che non ce l'ha. E bisogna capire che cosa succederà però da giovedì, perché la legge approderà al Senato giovedì. Ecco, è l'esplosione di una ventina di senatori del PD durissimamente contrari, perché non si è capito fino alla settimana scorsa quando sono arrivati gli emendamenti, cioè contrarissimi alla Stepchild, addirittura non c'entra su questo testo, ma non è un caso, hanno depositato un emendamento sull'utero in affitto promuovendo il carcere fino a 3 anni. Utero in affitto che in Italia è vietato già per legge, però anche per chi va all'estero, anche per chi va all'estero vorrebbero il carcere. Il capo dello Stato ci ha messo un po' del suo. Perché tanto dici così? Beh, il capo dello Stato ha fatto chiaramente capire, tutti i giornali hanno scritto, i miei consulenti mi dicono che le sentenze della Corte Costituzionale in base a cui fate la legge dicono però che bisogna stare attenti a non omologare i diritti con quelli della famiglia naturale. Secondo me, ha detto, la parte dei diritti, di concessione dei diritti è troppo allineata a quella della famiglia. Il capo dello Stato ha dato una bella mano, Sì, quella è vera, ha richiamato quella sentenza dicendo. Ma la sentenza che l'abbiamo letta tutti. Cosa diversa è dire che il testo che era arrivato in aula lo rispettava. È pur sempre un giudice costituzionalista il capo dello Stato. È un politico, Mattarello, scusami. Caso ha fatto il politico? Lui è un politico, adesso non è che lo prendiamo ho capito, però è stato anche giudice della Corte Costituzionale. Ma in quanto politico, la sua carriera è politica, è totus politicus, cioè ci mancherebbe altro. In questo caso, totus politicus è tutto cattolico da una parte. A proposito, chi cita la Boldrini si ricorda che c'è il capo dello Stato. Allora anche lo scontro tra virgolette con Renzi, che invece la vuole questa legge fortemente, essendo un ex scout anche lui, quindi non ha mai fatto voglio dire, c'è una pluralità, e tra l'altro adesso c'è la gara chi ce l'ha più lungo, cioè quanti conta delle piazze. Non mi è piaciuta questa reazione che c'è oggi saremo 2 milioni, da me a Dinolfi noi saremo 2 milioni, mica i 4 sfigati, ma che vuol dire, cioè perché in democrazia conta, ma in democrazia le leggi le fa il Parlamento. In democrazia dove è ci quella sono... in cui per loro il capo della CEI dice quali leggi vanno approvate e quali no. Teocrazia si chiama quella, non democrazia. Certo. Teocrazia, che è quella dell'Iran. Piena libertà. L'altro. Sì, no, adesso però senza esagerare, non faccio paragoni di questo tipo. Quello lo è. Quello lo è, e certo, se glielo dai senza bilanciamenti e senza limiti se la pigliano tutti, impiccano la gente. Però del resto, io riconosco, il presidente della CEI è liberissimo di dire quello che vuole. Basta che non ci venga a dire che cosa va o non va approvato come legge in Italia, perché noi non lo facciamo sul Vaticano, dove processano i libri sulle loro malefatte invece che processare le malefatte. Allora, ci chiama Pier Giorgio da Aosta. Buongiorno Pier Giorgio. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Eccoci. Io volevo intervenire sul fatto di Sanremo, semplicemente per una, tutte le volte che ne sento parlare mi arrabbio sicuramente per quelli che andavano a timbrare in mutande, su questo non ci piove, ma mi arrabbio anche perché adesso è diventata, sembra quasi che ci nascondiamo dietro Sanremo, ma i politici raccontano bugie, gli italiani non pagano le tasse, è vero, poi c'è anche chi timbra in mutande, ci mancherebbe ancora, cacciatelo via, però dici patata, possibile che oggi ci sia solo quello da parlare. Dice, non è il problema non è il problema principale dell'Italia, dice lei. Il problema principale dell'Italia è che c'è gente che non timbra, poi non timbra in doppio petto, e mi va bene, e questi vanno cacciati come quelli imputanti, ma poi ci sono tanti, cominciare dai politici, adesso ci saranno le nuove elezioni amministrative. Sì, però Pier Giorgio, non cadiamo nel, secondo me, mio parere, non cadiamo nell'idea di dire c'è sempre un problema più importante di questo. Lo so, c'è sempre un problema più grave, no? di cui discutere. Però un problema di una pubblica amministrazione inefficiente è un problema soprattutto per coloro che portano avanti statali, secondo me, Carosca, delle giuste rivendicazioni. Quelli che dal 2009 non hanno rinnovato il contratto e che dicono, ma se noi diciamo guardate che non ci rinnovano il contratto, gli italiani, molti, la reazione è ma guarda che siete anche un gruppo di fannulloni che timbrate. perché questi qui che timbrano il cartellino male fanno un danno a tutti quelli onesti, la maggior parte, che dovrebbero avere delle rivendicazioni riconosciute. E poi, comunque, peggiore del problema è adesso vedere, c'è questo nuovo decreto attuativo della riforma Madia, dicono 48 ore, abbiamo capito nel frattempo che il collega della stampa ha detto sì, 48 ore, nel frattempo non hanno modificato i tempi del contenzioso disciplinare che erano di 4 mesi rispetto ai 30 giorni, vedremo in Parlamento, però l'essenziale è che se questa norma fa fare un passo avanti rispetto a almeno a chi è beccato in fragranza di violazione di obblighi fondamentali del proprio codice di fedeltà del pubblico impiego, licenziato. Questo mi sembra un passo avanti. Abbiamo visto che i licenziamenti nel 2014 sono solo il 3%, il 3% dei procedimenti disciplinari. E quei 227 licenziati, di cui una settantina per falsa timbratura, vanno rapportati nel 2014 al fatto che nei soli dipendenti ministeriali, cioè stiamo parlando di una frazione di infinitesima rispetto ai 3,2 milioni totali dei dipendenti pubblici, ecco, tra i soli dipendenti ministeriali ci sono 702 indagati per reati, cioè indagati penali, e in tutta la pubblica amministrazione 227 licenziati su 3,2 milioni. Quindi Pier Giorgio, capisco, non è il problema fondamentale, però contemporaneamente non è un piccolo problema. No. Sentirei Carlo da Milano. Buongiorno Carlo. Sì, buongiorno. Io volevo soltanto dire che non trovo particolare scandalo nella scritta del Pirellone, se non altro perché in tutti questi anni, almeno negli ultimi 20, mi sono ciucciato bandiere arcobaleno, bandiere della pace, bandiere della Palestina, facce varie dei Marò, di altri tanti personaggi su tanti edifici pubblici, e non è mai stato fatto scandalo, per cui francamente trovo illiberale quello che, con motivazione contraria, molti adesso dicono come scandalo. Ma allora, su scandalo, veramente... sul termine scandalo sono d'accordo con lei, non trovo che sia uno scandalo. Sì, secondo me è una cosa inopportuna, come ha detto Oscar. Gli scandali sono altri, questo certamente. Però. Ma sa, vede, sui social ci sono tante prese di posizione, veramente con grande enfasi, no? Come se fosse una cosa. Cioè, quando poi questi campioni del liberalismo poi in altre situazioni fanno finta di niente, perché in Italia, vede, il problema è questo, che si usano le argomentazioni come clave contro gli altri. Ma no, guardi, il problema è che in Italia si usano gli errori altrui per farne improprio, come in questo caso fa lei, cioè io non mi nascondo dietro il dito. Cioè, lei ha detto testualmente che lei ha dovuto sopportare le facce dei Marò sugli istituti pubblici, e quindi a questo punto per lei le facce di chi serve in divisa l'Italia, ripeto. Scusi, lei ha fatto un esempio, io parlo del suo esempio, adesso non lo ritragga. Allora, lei ha fatto quell'esempio che riguarda un classico esempio invece istituzionale di chi serve un'istituzione, quindi lì la politica e chi la pensa diversamente non c'entra nulla, e in quel caso, come vede, siccome siamo in un campo istituzionale, stiamo alla coerenza per definire le cose, ci sta. In altri casi, che ha detto lei, cioè il simbolo del pacifismo è divisorio, e la penso come lei in quel caso. Peccato che in questo caso dire il Family Day rientri esattamente nell'improprio uso di un enorme palazzo, sede di un'istituzione, però per una cosa che divide, perché non è istituzionale, è politica, come erano le bandiere della pace, come non sono i due ritratti dei Marò. Ecco, quindi questa è la differenza. Una cosa istituzionale si usa per le cose istituzionali, dopodiché legittime le opinioni politiche, ma non si usano i palazzi delle istituzioni per le opinioni politiche. Tra l'altro, noi tra poco avremo, dopo la pubblicità, il sottosegretario per la pubblica amministrazione e la semplificazione Rughetti. Cercheremo di capire allora se questa velocizzazione c'è, almeno per i furbetti del cartellino. E anche se la tanto promessa taglio a 1000 delle partecipate, però come credo io, avendo letto il decreto, no. Tra poco. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Sono le 8:40 minuti in punto. Ed eccoci qua, il giorno della conversione di Paolo. Abbiamo eccoci come qui. Ospite cosa c'entra? Il sottosegretario per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Angelo Rughetti. Buongiorno. Grazie, sottosegretario. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, parliamo di questa riforma importante. La prima cosa che mi viene in mente, caro sottosegretario, è quando sente dire: ma guardate che le leggi già c'erano, no? La famosa legge Brunetta, che prevede per chi fa una falsa attestazione della presenza in ufficio, cioè i furbetti e il cartellino, di essere allontanati. Lei che risponde? Cioè, perché c'era bisogno di una nuova riforma a riguardo? Mi viene un po' da sorridere quando sento Brunetta, perché mi ricorda un po' la parabola della volpe e dell'uva, no? Non so se la ricorda. Sì, come anche no. Lei. Non d'un matura est, come diceva. Esatto. No, il tema è abbastanza semplice, no? Noi siamo partiti da una domanda: ma quando si assiste a delle scene come quelle avvenute a Sanremo o qualche anno fa alla prefettura di Pistoia o al museo qui a Roma, prima di poter intervenire, e cioè sospendere lo stipendio e mandare a casa a licenziare il dipendente, abbiamo bisogno che intervenga la magistratura o possiamo farlo da soli in tempi rapidi? E noi abbiamo detto: cerchiamo di trovare una strada che sia più rapida, più veloce e che soprattutto dia una risposta certa, senza che c'è bisogno di un giudice che intervenga, che faccia un'indagine, metta le telecamere, attraverso queste telecamere ci accorgiamo di quello che tutti già dentro il comune o dentro il museo conoscono già, perché tutti sapevano che lì c'erano degli assenteisti, non avevamo bisogno che arrivasse la Guardia di Finanza e la magistratura. Ma questa è la domanda che ci siamo fatti: le norme a cui faceva riferimento Brunetta non erano sufficienti a garantire questo risultato, tant'è vero che a Sanremo si è arrivata al licenziamento dopo 5 mesi, tant'è vero che sono soltanto 227 su 7000 i licenziati nella pubblica amministrazione. E allora noi abbiamo introdotto questo nuovo modo per poter ristabilire un principio di equità, e cioè se tu vieni beccato davanti a un cartellino, davanti a un timbratore col tuo cartellino, timbri e te ne vai, oppure mandi anche un certificato che non va bene, noi dobbiamo iniziare a fare una procedura che in 48 ore ti tolga lo stipendio, in un mese, se è confermato quello che si è visto, vai a casa, punto. In 30 giorni. Ci sono questi dubbi sulla velocità, appunto, di riuscire a fare questo? Cioè, questo reggerà, secondo lei, di fronte a un giudice del lavoro, cioè l'allontanamento in 48 ore? L'allontanamento in 48 ore, la sospensione non va davanti a un giudice, ma viene fatta internamente dall'amministrazione, così come il procedimento disciplinare. Poi, giustamente, aggiungo io, il lavoratore avrà tutte le garanzie giurisdizionali davanti al giudice al quale dovrà rivolgersi. Però noi, il nostro procedimento amministrativo interno a quell'ufficio, in un mese lo dobbiamo chiudere, e lo possiamo chiudere. Perché? Perché abbiamo messo un elemento che prima non esisteva, e cioè una automaticità nell'applicazione delle sanzioni. Cioè non è più il dirigente che può valutare se sospendere o non sospendere, ma la sospensione è ex legge, quindi lui deve soltanto prendere atto e applicare la legge. Due, abbiamo messo in mezzo il dirigente, perché il dirigente oggi si può girare dall'altra parte, quando entrerà in vigore questa norma, se si gira dall'altra parte rischia anche lui il licenziamento, e rischia poi di essere sottoposto a un procedimento penale che è un'omissione di atti d'ufficio, per il quale il nostro codice penale prevede delle norme molto molto severe. Sottosegretario, nella ulteriore, siccome i decreti legislativi che voi proponete poi hanno un parere in Parlamento, poi tornano per l'emanazione legislativa, c'è chi ha notato, secondo me un ottimo collega della stampa, Giuseppe Salvaggiuro, l'avrà visto in rassegna stampa alla fine della scorsa settimana, dice: sì, ottimo il principio, ottimo i 30 giorni per definire il contenzioso disciplinare, però bisogna modificare il decreto, cioè bisogna rendere coerente a questi 30 giorni tutti i termini che erano diversi del precedente testo del contenzioso disciplinare, cioè per esempio i 20 giorni consentiti al lavoratore per rispondere una volta che gli viene notificata. Avverrà questa cosa? Perché i 30 giorni devono essere davvero i 30 giorni, no? Sì, dal nostro punto di vista è già così, perché noi interveniamo con una norma a modificare una norma, quindi implicitamente tutti i termini vanno ridotti. Lo sa, però, che nell'Italia del diritto si trova sempre poi un giudice o un avvocato che dicono quindi è meglio fare le cose per benino. Essere necessario fare una modifica che espliciti, diciamo, questa riduzione dei tempi. Va bene. Io invece c'ho una domanda su un altro dei decreti legislativi che avete approvato, quello relativo alle partecipate. Sì. Perché a me è venuto un po' da sorridere, lo dico con rispetto, verso la campagna che è partita nella settimana precedente: 100.000 dipendenti verranno buttati per strada, eccetera, eccetera. E quindi ero molto curioso di andare a vedere quali erano i criteri che identificate perché le partecipate pubbliche possano rimanere o se ne possano aprire delle altre oppure quelle che vanno chiuse. Allora, io ho questa impressione, avendo letto bene il testo definitivo, come al solito non c'è ancora, però sappiamo, ci è stato detto da voi, dal governo, che il testo che conosciamo come giornalisti è stato modificato solo per alcuni punti, ma per il resto non le cose di fondo era quello noto. E quindi se io vado a vedere i criteri in base ai quali restano le società pubbliche, restano, e quelli in base ai quali si chiudono, quelli che si chiudono, diciamolo a chi a casa, tra gli altri criteri, quelle che hanno più amministratori che dipendenti, quelle che non hanno almeno 1 milione di fatturato, quelle che hanno negli ultimi anni sono in perdita, io ho l'impressione, mi corregga se sbaglio, che sì, si chiuderanno le scatole chiuse, alcune, insomma, un bel po' di frattaglie, benissimo per quello che mi riguarda, ma le faccio una domanda. L'ATAC, secondo il criterio che indicate, l'ATAC è la municipalizzata pubblica, quella romana più in perdita tra tutte, dice Mediobanca, da 10 anni è così, cioè ha perso più di 1,6 miliardi, a 1,8 miliardi di debiti. L'ATAC dovrebbe rientrare nella categoria di quelle che perdono, ma dice il decreto, il governo stesso si riserva con un proprio intervento alla presenza del Consiglio la possibilità di derogare. Le faccio una domanda. L'ATAC viene chiusa e ceduta in base al vostro decreto, e quindi significa l'ATAC, quelle che perdono sistematicamente un mucchio di cifre, oppure questo governo dice no, aspetta, un conto il criterio generale, però sull'ATAC, LAM, eccetera, non si può fare, deroga e tutto continua com'è? Allora, guardi, lei tocca un tema molto importante, perché il tema del trasporto pubblico locale è un tema che coinvolge direttamente la pelle dei cittadini e soprattutto di quelli che hanno bisogno di utilizzare quel mezzo pubblico per andare a lavorare o per uscire, perché o non hanno mezzi privati da utilizzare o questi mezzi privati costerebbero troppo. Quindi ci rivolgiamo ad una fetta di persone che, diciamo, tra virgolette, sono dentro uno stato di necessità, ok? Quindi noi dobbiamo inquadrare questo argomento con questa ottica. Allora, non c'è sistema di trasporto pubblico locale al mondo che non riceva un finanziamento pubblico. Quelli che l'hanno inventato, cioè gli Stati Uniti, viaggiano una media intorno al 30-35%. Allora, il problema, a mio avviso, non è chiudere l'ATAC. Il problema è fare in modo che l'ATAC diventi una struttura efficiente e dia un servizio di qualità. Sì, però se il decreto... però siete voi nel decreto... Ma io non discuto questo, io mi chiedo semplicemente se... Nel decreto c'è scritto quelle che perdono da X anni, e quello è un caso di devastante rovina, di falò, di risorse pubbliche del contribuente, dei romani. Può essere che in quel caso si può fare un bel banco di prova per vedere, mica si chiude l'ATAC, ma si cambia la gestione. Per questo si chiede. Facciamo capire ai romani dal decreto, siccome riguarda l'ATAC e l'AMA, proprio non poco cosette. Secondo lei, dal decreto, che cosa arriva a Roma, nuovo sindaco? Allora, dal decreto arriva a Roma il nuovo sindaco e già il commissario, speriamo che i tempi siano veloci, una serie di incentivi per fare in modo che l'ATAC sia strutturato dal punto di vista industriale e quindi faccia delle aggregazioni, in questo caso si spera, auspico io con la Regione Lazio, per avere una società che non sia più soltanto quella che riceve un affidamento diretto dal Comune di Roma per la gestione del TPL dentro la città di Roma, ma diventi la società di gestione del trasporto locale nella città metropolitana e possa fondersi con la società regionale Cotral della Regione Lazio per avere una società strutturata. È chiaro che bisogna stare attenti, perché noi possiamo far pagare ai cittadini del Lazio i debiti che hanno accumulato, che ha accumulato l'ATAC quando era soltanto del Comune di Roma, ma l'obiettivo è quello di guardare la parte industriale e non guardare più la parte soltanto, diciamo, finanziaria o il tema degli affidamenti. Cioè, il servizio pubblico locale deve restare, perché il TPL, diciamo prima, serve alle persone che ne hanno bisogno e quello dobbiamo preservarlo, ma dobbiamo creare le condizioni perché l'oggetto sul quale tutti quanti dobbiamo lavorare è la qualità del servizio e la solidità industriale, e per far questo bisogna allargare l'utenza, sì, pulire i bilanci ovviamente da tutte le inefficienze che ci sono e mandare a casa i manager che fino a oggi, manager, e se ci fossero ancora i politici che fino a oggi hanno gestito questo ente e nominato. Però, questi amministratori, sottosegretario, ci può dare un numero, perché oggi il Sole 24 Ore fa dei numeri sulle 2545 aziende pubbliche nella condizione di avere un meno di 1 milione di fatturato, poi ci sono 1651 attive in settore di mercati, 3035 che hanno meno di 5 dipendenti, cioè alla fine quante ne taglierete? Ci può dare un numero? Ma quante ne taglieremo oggi è difficile dire. Dell'ordine di... Sto sulla linea del Presidente del Consiglio e quindi penso che noi dovremmo arrivare a dei numeri molto, ma molto, il Presidente molto del Consiglio dice che ne restano 1000. Guarda, Rughetti, io accetto. Allora, faccia una scommessa con me. Io mi rifaccio crescere i capelli. Aspetta, mi taglio i baffi. Sentiamo il numero, sentiamo la cifra. Quanto arriveremo? Mi faccio ricrescere i capelli. Allora, distinguiamo due cose. Distinguiamo le società di servizio pubblico locale dalle partecipate diciamo, che fanno servizi per la pubblica amministrazione, okay? Allora, sulle società servizi pubblico locale nel decreto abbiamo detto una cosa: le regioni devono stabilire gli ambiti ottimali, no? Cioè quei dei cerchietti dentro i quali c'è un'omogeneità di fattori che fa in modo che lì si possa avere una società, e abbiamo detto che questo cerchietto non può essere più grande, più piccolo della provincia, ok? Oggi tenga conto che ci sono province dentro le quali ce ne sono 5, 7, 10, 20 di società di rifiuti. Allora, questo che cosa voglio dire? Voglio dire che noi stiamo andando verso un sistema come quello che ha delineato la legge Delrio, in base al quale in ogni provincia ci potrà essere al massimo, una società di servizio pubblico locale per ogni settore. Sì. Quindi se noi partiamo e parliamo di rifiuti, acqua, luce e gas, già andiamo sulle 400-500. Oggi soltanto quelle del gas sono 500. Però, quindi, sottosegretario, siccome nella legge stabilità 2014-2015 i programmi di razionalizzazione c'erano e sappiamo che meno della metà delle amministrazioni hanno mandato un pezzo di carta e meno di un decimo un pezzo di carta in realtà prevedevano davvero delle fusioni, che cosa ci deve far pensare, non essendoci termini perentori questa volta, che sarà diverso? Una norma di chiusura bellissima, cioè il potere sostitutivo. Se il comune non si muove, la regione si sostituirà al comune. Se la regione non lo fa, allora lo farà il Ministero dell'Economia e delle Finanze. C'è una catena di comando che consente alla fine di arrivare mandare la palla in buca. Guardi che le regioni che abbiamo sentito dicono che se intervenite voi al posto loro è incostituzionale anche col nuovo testo dell'articolo 5. Voglio vederla questa cosa. Abbiamo già fatto commissariamenti su altre cose rispetto alle regioni. Guardate, quindi si può fare, dice lei. Abbiamo fatto. A proposito di regioni, l'ultima questione è questa, sottosegretario. Dobbiamo spiegare agli italiani che in Sicilia, questa, per l'autonomia della Sicilia, questa riforma non è applicabile automaticamente se la regione non la recepisce. Dalla Sicilia hanno detto che la recepiranno, dovreste stare tranquilli. Ma questo non ci fa pensare che forse l'autonomia in certe cose è superata? Magari. Dovrebbe essere superata. Io sono d'accordo che questa cosa riguarda non solo la Sicilia ma anche altre regioni a statuto speciale, dove c'è un muretto ormai che non ha più senso. Era l'occasione buona nella riforma costituzionale per dare una spianata a queste cose, però vabbè, so che adesso non bisogna confondere. Diciamo, se non capisco. però non ha senso. Io sposo le sue parole, non ha più senso, quei muretti l'hanno più senso. Sì. Noi la ringraziamo, ci fermiamo qui. Grazie sottosegretario Rughetti per essere stato con noi. Oscar, qua ci sono tante telefonate. Sergio da Ravenna, forse Sergio, c'è spazio per lei. Forza. Grazie, buongiorno. Io volevo solamente brevissimamente invitarvi a riflettere su un altro aspetto, che è quello per quanto concerne l'inefficienza della pubblica amministrazione. Sì. Allora, è inefficiente e poi chiaramente c'è il discorso dei dipendenti pubblici, però attenzione che noi abbiamo anche un'utenza inefficiente. Io lavoro chiaramente come dipendente pubblico, nel mio piccolo, modestamente, quello che ho visto è che il tessuto imprenditoriale che può andare dall'artigiano, devo ammettere molte volte straniero, quindi con problemi di lingua, di integrazione, eccetera, però anche le imprese normali italiane non è che siano tanto preparate, noi siamo sempre più avanti rispetto a loro. Interessante. Scusi, l'utenza, Sergio, non preparata. Ma adesso io la invito a riflettere. Voi esistete, siete pagati per essere fattori abilitanti, non per giudicare su chi non è abilitato. Cioè potrebbe voi arrivare uno totalmente ignorante e altrimenti dovete, capite, mettiamo solo studi professionali privati e facciamo le gare a chi è più efficiente, punto. Comunque con Sergio finiamo e niente, ci dobbiamo salutare. Però io dico sempre viva San Poppo. Ne abate! San Popone ti è rimasto qui. Ciao! Alino e Giannino, e come quel gattino che di primo mattino ti viene vicino e poi...